non passa. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi. E lei che animale è, Piero? Controlli col senno di poi. Scusi, non è che volevo darle dell'animale. Abbiamo un battito sano. Io mi sento una zanzara comunicativa. Io continuo a ronzare fino alla morte. Insomma, Nicoletta, se porto con me te, Marco e Isotta, sappi che possiamo fare un bel team lì, ci fanno anche un po' di sconto, abbiamo la palestra dai, accanto, forse il teatro. Non ci sono controindicazioni, guardi, io e Deborah possiamo essere assunte tutti i giorni, anche più volte al giorno, non possiamo che fare bene. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani. E anche noi vogliamo scattarci una foto, anzi un selfie. Oggi il nostro selfie servirà a qualcosa di buono, postandolo su Facebook o Twitter o Instagram o in qualunque social. Infatti con l'hashtag AltPigrizia parteciperemo attivamente alla quarta giornata nazionale per la lotta alla trombosi che si celebra oggi. Allora scattatevi una foto, iniziate a condividerla per dire stop alla pigrizia e fare una promessa concreta verso uno stile di vita sano, cercando così di prevenire le malattie cardiovascolari e la trombosi. E noi oggi proprio di trombosi parleremo. 800 24 00 24. Fatemi un piacere però, aiutatemi sin d'ora a realizzare una Vox Populi in diretta. Trombosi. Che cosa vi suggerisce questa parola? Non dovete preoccuparvi di dare la definizione corretta. Ditemi solo a che cosa l'associate. Un'immagine, una parte del corpo, una cosa che va bene, una cosa che va male, qualunque cosa. Che cos'è la trombosi? Una cosa è certa, conoscerla, ed è quello che faremo oggi, partendo proprio dalle vostre domande e con l'aiuto di una grandissima esperta, può fare la differenza, perché la trombosi c'è, ma si può evitare. Intanto mentre mi accingevo a lanciare la parte di denari, invece mi stavo un po' distraendo perché anch'io mentalmente mi concentravo sulla definizione che posso dare a trombosi, poi magari mi cimento, se accetti volentieri. Ci tengo molto. Allora, nella pagina di Cuore diamo spazio, come avete sentito giustamente, a questa giornata nazionale così importante, ma anche nella pagina di denari dedichiamo uno spazio ad una giornata, o meglio ad una serie di giornate importanti a livello nazionale per tutti i piccoli risparmiatori. Sono le giornate del collocamento dell'ottavo BTP Italia, il titolo di Stato rivolto prevalentemente al pubblico dei piccoli risparmiatori, che sappiamo essere in parte anche il pubblico di Cuore e Denari. È un collocamento che peraltro, lo ha fatto sapere proprio ieri sera sul tardi il Ministero dell'Economia, si chiude anticipatamente oggi alle 14. Allora se siete anche voi investiti o pensate di investire in titoli di Stato, in particolar modo in questa obbligazione, iniziate pure a prenotare le vostre domande. Se avete aspettato il collocamento iniziato lunedì, se avete aspettato proprio quest'ultimo giorno per farlo, perché avete ancora delle domande in sospeso, rivolgetele a noi all'800 24 00 24. E guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino. Io sono quello col vino, lui è quello senza. Avete fatto il selfie? Allora, forza, scattate, postate e partecipate soprattutto in diretta alla nostra Vox Populi. Svuoteremo la libreria di Cuore Denari. Chiamate il nostro numero verde, diteci che cosa è secondo voi la trombosi, a che cosa associate questo termine. Ma chiamateci anche per dirci che non la conoscete, non ne avete mai sentito parlare. E non sentitevi in difetto, perché secondo i dati di un'indagine conoscitiva, solo una persona su tre sa il significato di questa parola. Voi continuate a chiamare chiamare, non preoccupatevi, 800 24 00 24, ma usate anche il nostro numero verde per raccontarci se la trombosi invece la conoscete, se ne avete esperienza diretta. Anche questo è un modo per partecipare alla giornata nazionale, che è giunta quest'anno alla quarta edizione. Con noi c'è Lidia Rotavender, presidente di ALT, l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari, e responsabile del centro di prevenzione cardiovascolare di Humanitas. Benvenute, buona giornata, anzi buona quarta giornata, perché noi in Italia siamo avanti. Noi siamo molto avanti, siamo più avanti del resto del mondo. Nel mondo siamo alla seconda, noi siamo già arrivati alla quarta. E buongiorno a tutti. Dottoressa Rotavender, intanto che i nostri ascoltatori da casa ci danno con i loro interventi il polso della situazione, perché questo esperimento della Vox Populi in diretta non l'avevamo ancora fatto. Ma ci piacerebbe, noi che ce ne inventiamo dal giorno, proprio fare anche queste, no, questa cosa insieme a voi. Iniziamo a raccogliere le informazioni utili, iniziando a dire ad esempio che la trombosi di per sé non si può definire una malattia, è un meccanismo. Ecco, il meccanismo, la causa che ne determina, è la causa che provoca tante malattie diverse che conosciamo con nomi molto più vicini a noi: l'infarto, l'ictus cerebrale, la flebite, la tromboembolia, l'embolia polmonare, che però sono tutte malattie accomunate dal fatto di essere causate da un'unica causa scatenante, che è la formazione di un coagulo di sangue in un punto e in un momento in un vaso in cui non si sarebbe dovuto formare. E tornando al Denari, per ogni 10% di aumento di queste malattie cardiovascolari, come è previsto ogni 10 anni nel futuro, noi perdiamo mezzo punto di PIL. Non lo perdiamo solo noi in Italia, ma lo perde l'Europa e lo perde il resto del mondo che è messo come noi. E credo che se anche qualcuno ancora non conosce la parola trombosi, e sono tanti purtroppo, perché il lavoro non basta mai, credo che tutti quelli che purtroppo l'hanno conosciuta da vicino, se potessero tornare indietro, direbbero che vorrebbero averlo saputo prima. Stavo pensando ai voglia ai governi a cercare e trovare tesoretti, quando invece dovrebbero farsi carico di questi problemi, ai voglia quanti tesoretti risparmiati. Sì, lo fanno, lo fanno a parole, ma poi di fatto di risorse destinate alla vera prevenzione non ce n'è. Quindi, e poi ognuno di noi deve fare il suo investimento personale. E noi facciamo il nostro, la nostra insieme, parte, facendo informazione, perché la prevenzione parte da un'informazione corretta. 800 24 00 24. Arrivano già i messaggi al 349 238 6666. Potete fare anche naturalmente il vostro intervento attraverso il nostro numero verde. La trombosi è una patologia del sistema venoso, ci scrive Adriano. Riccardo ci scrive: la parola trombosi mi fa venire in mente i vasi sanguigni. Insomma, la parola trombosi, da anche da altri ascoltatori, viene associata alla circolazione, anche alla coagulazione. Ci stiamo avvicinando, dottoressa Rotavender. È giustissimo, perché i trombi si formano dentro ai vasi e sono esattamente le stesse reazioni biochimiche che si formano quando noi ci facciamo una ferita in superficie, il sangue esce e poi coagula. Lo stesso meccanismo identico avviene all'interno dei vasi. Ovviamente nell'interno dei vasi avviene in un modo inappropriato e può essere troppo di dimensione, occupare un vaso troppo importante e quindi asfissiare quelle cellule che prendevano sangue da quel vaso e che poi muoiono. E queste cellule possono essere ovunque: nelle gambe ci fanno meno paura, anche se non è giusto, ma è perché le gambe sono meno nobili come organo. Nel cervello ci fanno molta più paura, nel cuore ci fanno molta paura, un trombo in una coronaria vuol dire l'infarto, nelle carotidi ci fanno paura, sono trombi che si formano sulle placche delle carotidi, che sono arterie importanti nel collo e portano il sangue da cuore a cervello, quindi hanno vinto il premio tutti e due. 800 24 00 24, continuate a chiamare, naturalmente parleremo anche dei fattori di rischio, faremo un identikit, ma siamo tutti chiamati ad intervenire in questa puntata, perché tutti abbiamo del sangue che circola nelle nostre vene, quindi se abbiamo del sangue mi viene un po' da sorridere, perché mi ricordo una volta un mio collega che aveva detto che per la dottoressa Rota la trombosi non era un tema ma era un'ossessione. Una sana ossessione, obiettivamente sì, perché penso che ce ne sia bisogno. Sì, certo, il sangue ce l'abbiamo tutti, speriamo, almeno sì, ce l'abbiamo tutti, se abbiamo sangue soprattutto nelle vene speriamo che circoli, perché se il sangue si ferma coagula, soprattutto speriamo che stia al suo posto, che stia dentro le vene, dentro le arterie, perché se esce dalle arterie le vene coagula, soprattutto speriamo che non rallenti la corsa verso il cuore o dal cuore verso la periferia, perché se rallenta la corsa coagula. Insomma, speriamo che il sangue faccia il suo lavoro. E lo fa anche grazie al cuore che lo spinge. Ecco. C'è un dato che emerge dalla vostra indagine conoscitiva molto interessante, su cui è importante lavorare. Uno dei tanti luoghi comuni che si radicano là dove la buona informazione non è ancora riuscita a mettere radici, si pensa che le malattie da trombosi non si possano evitare. In realtà evitarle è possibile, anche molto semplici. Basterebbe dire alta alla pigrizia, che è anche lo slogan della giornata di oggi. Uno slogan naturalmente che non è stato scelto a caso, ma che ha la conferma della ricerca, il bollino blu, e che vuole in modo semplice e diretto promuovere la prevenzione. Alta la pigrizia, perché? Perché noi abbiamo cominciato tanti anni fa, ormai più di 20 anni fa, affrontando questo tema dal punto di vista della prevenzione attraverso lo stile di vita sano. All'inizio veniva interpretato come uno stile di vita punitivo, qualcuno ancora ci prova. Oggi vediamo sempre più persone che si dedicano, corrono, sì, camminano, vediamo anche persone di una certa età che vanno a fare questo Nordic, questa camminata nordica, che è molto interessante. Non c'è bisogno di diventare dei campioni, ma l'attività fisica è il minimo della manutenzione che noi possiamo dare al nostro corpo, e la prevenzione delle malattie cardiovascolari è così straordinariamente efficace che se tutti noi avessimo un minimo di attenzione, attività fisica 3 volte alla settimana, 40 minuti come minimo, un'alimentazione intelligente che non vuol dire castigata, eviteremmo un caso su 3, vuol dire in Italia 200.000 persone all'anno che non cascano nel baratro della trombosi. Allora, cominciamo subito a sentire i nostri amici da casa che si stanno candidando a darci la loro interpretazione del significato di trombosi, e cominciamo con Massimo da Roma. Benvenuto. Sì, buongiorno, un saluto a tutti e agli ospiti e complimenti per la trasmissione, è sempre un piacere ascoltarvi. Grazie, grazie. Massimo, quanto è carino. Molto. Assolutamente, tutti i giorni siete presenti, quindi è sempre un piacere. Ottimo, ci dica tutto. Niente, io volevo far presente appunto un altro caso di problematica, che è quello che è successo a me un paio di anni fa, che poggiandomi sul bordo della piscina in casa ho tirato su un peso ed ho causato una trombosi con un evento traumatico della vena epigastrica, che mi hanno detto una vena superficiale che si è rotta. Sopra lo stomaco, sì. Sì, nella parte bassa a destra, sì. Che io tra l'altro avevo sottovalutato pensando, insomma, solo dolore e basta. Ad giorno uno dopo, strappo, sì. Esatto, più uno strappo muscolare che altro. Il giorno dopo mi sono svegliato con una macchia nera per tutto l'addome e lì mi sono veramente spaventato. Sono corso al pronto soccorso e mi hanno detto appunto quello che era successo. Ho dovuto fare pronto soccorso, ospedale, un mese di punture, Clexan alla pancia per sciogliere questo trombo, e ho scoperto mio malgrado appunto anche quest'altra causa che penso sia possa essere d'aiuto per non sottovalutare. Grazie Massimo per il suo contributo. A Massimo un libro della, certo, della libreria di Cuore Denari, e naturalmente quello la dottoressa Rottavender ci può, questo ci aiuta a capire, sì, che non è un problema da vecchi. Dunque, intanto che non è un problema legato necessariamente ad altre malattie o al fatto di essere molto anziani e pieni di problemi. Massimo non so quanti anni abbia, ma mi dà l'occasione per parlare della trombosi che può accadere anche nei giovani. I giovani soprattutto, anche inaspettata. Il problema della trombosi è che quando viene sospettata dal paziente, ma anche dal medico, può essere diagnosticata e poi curata. Il problema è quando non ci si pensa, quando viene scambiata per uno strappo muscolare, quando viene scambiata per semplicemente per un problema di catarro nei polmoni, invece c'è già un'embolia polmonare. I giovani atleti, per esempio, o i ragazzi che vanno molto in palestra e che spingono molto sulla costruzione della muscolatura rapida, soprattutto sul torace e sulle spalle, in alcuni casi possono creare, se questo avviene troppo rapidamente, una compressione delle vene che scorrono, diciamo, fra il collo e il braccio, e questa compressione può, in alcune persone particolarmente predisposte, potrebbe provocare una trombosi. Anche qui non bisogna mai avere paura, le cose bisogna conoscere, e quando le conosco le gestisco. Queste cose possono accadere, accadono anche ai giovani sportivi professionisti, accadono per esempio ai vogatori. Il mio paziente più diciamo un ricordo di quelli che ho era un ragazzo che di mestiere faceva l'installatore di impianti per l'aria condizionata, e quindi stava tutto il giorno con questi apparecchi che si appendono al soffitto, e questo importante peso, questo irrobustimento della muscolatura, il portare il peso, la contrazione dei muscoli insieme, ribadisco, a una sua predisposizione certo. E forse anche a qualche fattore di rischio associato. La malattia da trombosi non sono malattie da killer, è inutile che andiamo a cercare il colpevole, dobbiamo cercare la squadra. E la squadra è fatta di cose molto semplici, quindi l'inattività fisica, quindi un'alimentazione disordinata, il grasso sull'addome, ma anche da un assetto genetico che potremmo avere ereditato dai nostri genitori, ma che non deve essere una ragione per avere paura, è semplicemente una ragione per considerarci più delicati e quindi farci prendere dei provvedimenti più in anticipo rispetto ad altri. Un livido può essere una trombosi, ci scrive un ascoltatore, perché è stato forse colpito dalla storia del nostro amico, sì, che ha detto: mi sono ritrovato al mattino con un grosso livido sull'addome. No, la trombosi è l'occlusione di un vaso, quindi il vaso si chiude, però quando il trombo chiude la vena ha un ostacolo all'interno per cui il sangue non riesce ad andare nella direzione in cui dovrebbe, verso il cuore. Questo perché si tappa, quindi il vaso nella sua parte dietro il trombo subisce un aumento di pressione, e siccome le vene sono porose ed elastiche, se si dilatano diventano intanto più appariscenti, e il fatto che le vene improvvisamente diventino più appariscenti sul corpo è un segno di qualcosa che non dobbiamo trascurare, e poi perdono una parte, diciamo, di liquido e di sangue che escono dai tessuti e vanno a finire nel sottocute, e possono dare come manifestazione collaterale un livido. Quindi non è sbagliato quello che ha chiesto. Dottoressa Rottavendere, allora, ricapitolando, non è una malattia ma la causa di malattie, non riguarda solo gli anziani ma tutti coloro che hanno del sangue nelle vene, corretta anche purtroppo i neonati, tanto che voi avete istituito addirittura un registro. Sì, per fortuna sono casi più rari quelli che colpiscono i bambini, però sono circa 8.000 casi all'anno soltanto di ictus cerebrale in persone giovani e non colpevoli, nel senso che non hanno dei fattori di rischio riconoscibili. Quindi possiamo dire che rivolta, no, dai neonati sino ai centenari questa puntata, che la trombosi si può prevenire, la prevenzione sempre, ma in questo caso ancora di più premi e paga. Ma facciamo un passo avanti, andiamo a individuare questa squadra, i fattori di rischio, conoscerli, come lei ci ha detto, può aiutare a fare prevenzione, che è l'obiettivo di questa giornata. Quindi andiamo con una convocazione: la giornata nazionale per la lotta alla trombosi è dedicata a te che hai o se hai pressione del sangue. I fattori di rischio possono essere modificabili, che sono i più semplici, sono quelli che più ostinatamente la gente tenta di rifiutare di aggredire, e sono la pressione del sangue, il grasso, l'inattività fisica, il fumo di sigaretta, l'utilizzo di droghe, soprattutto di cocaina, il diabete che non curato, l'ipertensione non curata, perché certo, l'ipertensione è curata bene, e quelli invece che non sono modificabili e che sono la predisposizione che deve deriva, guardando la propria famiglia, deriva dalla storia della propria famiglia. Se nella famiglia ci sono uno o più ascendenti, quindi diretti, quindi fratello, sorella, madre, padre, che hanno avuto degli eventi cardiovascolari, l'infarto, l'ictus, la trombosi delle arterie o delle vene, ecco, può darsi che io, appartenendo a quella famiglia, abbia una fragilità del mio sistema della coagulazione, che sia un po' troppo esuberante nell'andare a coagulare il mio sistema, e quindi forse devo prendermi cura di quello che è modificabile, perché certo, non posso cambiare il mio assetto genetico, e non devo nemmeno preoccuparmi di andarlo a cercare l'assetto genetico, posso già cercare prima di modificare quello che vedo passando davanti allo specchio. Quindi se avete la pressione del sangue alta, se fate uso di estrogeni, ad esempio la pillola anticoncezionale, se avete un colesterolo un po' altino, se siete morbidi e avete qualche chilo in più, se fumate, se siete sedentari, esatto, se consumate in modo eccessivo anche l'alcol, perché ho trovato sul sito di Alta, sì, anche soprattutto che riferimento per le trombosi anche cerebrali. Vero? Soprattutto per le trombosi cerebrali. Per la pillola diciamo una cosa importante, che non è una buona ragione rinunciare a un presidio così importante come la pillola contraccettiva, che può salvare da situazioni molto più drammatiche a livello fisico e anche psicologico, ma è importante comunque che, come in ogni situazione, io possa calcolare il mio rischio, e quindi se voglio prendere la pillola contraccettiva, per esempio, passare davanti allo specchio e vedere come sono fatta, quanto mi muovo, che giro vita ho, smettere di quali fumare sono le mie abitudini, sempre, ma soprattutto se prendete una e magari pillola, non drogarmi, ecco, potrebbe, e magari fare dell'attività fisica può già potrebbe aiutarmi, anche se fossi geneticamente predisposta. Naturalmente un invito speciale lo rivolgiamo alle persone che hanno avuto un caso in famiglia. È importante che mi mettiate in contatto con noi, perché ci sono delle attenzioni, dei controlli che bene sapere ed effettuare. Adesso andiamo a sentire i mercati con certo. Deborah e torniamo. Dottoressa Rottavendere, abbiamo dimenticato qualcuno? No, li abbiamo chiamati e raccolti tutti. Sì, li abbiamo coinvolti tutti, compresi i nonni. Compresi i nonni. Cuore e denari. Abbiamo messo la mano sul cuore? Allora, pagina di denari patriottica oggi, cara Nicoletta, così come sono patriottiche le circostanze che, possiamo proprio dirlo, hanno visto nascere nell'ormai lontano marzo del 2012 il BTP Italia, quando la crisi mordeva quella finanziaria, lo spread era alle stelle e c'era bisogno di stimolare il patriottismo degli italiani invitandoli ad investire nel nostro debito in un momento in cui invece tutti proprio se ne stavano liberando. Da allora sono successe tante cose, la crisi non ce la siamo purtroppo ancora lasciata del tutto alle spalle, ma questo strumento di investimento è rimasto e sono state diverse le emissioni. Oggi all'800240024 potete raccontarci se avete già investito un po' del vostro risparmio nel BTP Italia, se avete qualche domanda sull'ottava emissione che è in corso proprio in questi giorni. Dovete far presto perché alle 14 il Ministero dell'Economia ha deciso di chiudere anticipatamente. Torna con noi il nostro professore di risparmio Gianni Lupotto, ma faremo un blitz anche in borsa italiana per farci raccontare magari con qualche mezz'ora di anticipo così come si sta chiudendo questo collocamento. A tra poco. Ci state ascoltando con le gambe accavallate, allora cambiate subito posizione, questo è un consiglio tanto semplice quanto salutare, dedicato a chi passa molte ore seduto alla scrivania. C'è chi le gambe non solo le accavalla ma quasi le intreccia, ma che c'entrano? Infatti Deborah indica un'amica a caso. Ecco, ma che cosa c'entrano le gambe accavallate, vi chiederete voi? Non stavamo parlando di trombosi? E certo, qui in studio abbiamo la dottoressa Lidia Rottavendere, con cui stiamo festeggiando la quarta giornata nazionale per la lotta contro la trombosi. Noi la festeggiamo qui e i bambini la stanno festeggiando all'Arena e a Bari e a Genova e a Cassino, in un sacco di città quest'anno. Dottoressa, che cosa c'entrano le gambe con la trombosi? Beh, le gambe sono la sede più frequente di trombosi delle vene, chiamata trombosi venosa profonda o flebite. È evidente che accavallare le gambe una volta non fa succedere assolutamente nulla, perché ritorniamo al concetto che ci vogliono più fattori per determinare trombosi. Però certe abitudini che abbiamo e dimenticarci delle gambe quando stiamo seduti per ore alla scrivania, per esempio perché stiamo al computer, possono provocare un rallentamento di circolo, soprattutto in quelle gambe che magari non sono gambe sottilissime, che hanno qualche deposito di cellulite, quindi dove l'ostacolo per il ritorno al cuore è accentuato dalla presenza di altro. Insomma, oppure nelle donne incinte, il sangue deve superare degli ostacoli in questi casi, dei gradini, degli ostacoli, e quindi anche nelle donne in gravidanza, soprattutto nelle donne in gravidanza, ed è per questo che le donne in gravidanza dovrebbero per forza portare le calze elastiche, proprio per impedire che il sangue vada a finire in vasi superficiali delle gambe, dove non è contenuto dalle masse muscolari e quindi non viene aiutato a ritornare verso il cuore e vada invece spinto verso il cuore grazie al fatto che ci ricordiamo che avendo le gambe possiamo contrarre i piedi, ruotare le caviglie, contrarre i polpacci, flettere il piede sulla caviglia. Fare delle pompe naturali. Sono i movimenti che vediamo oggi su tutti gli aerei, la famosa sindrome della classe economica, sono trombosi che si verificano sugli aerei e ormai su quasi tutte le grandi linee ci sono questi piccoli video, piccoli cartoni animati che fanno vedere quello che uno può fare, senza sembrare pazzo. E a proposito di gambe, osserviamole con attenzione, libere delle calze, dei pantaloni fascianti, guardiamole così al naturale, belle, nudarelle, libere. Qualcuno noterà delle venuzze piccole, altri noteranno delle vene un pochino più grandi, in rilievo, più tortuose, un po' come una serpentina. Certo. Quali sono le indicazioni? Ci aiuti? Le cose più importanti sono quelle che accadono improvvisamente. Se le mie gambe sono asciutte, non hanno vene in superficie evidenti, ma improvvisamente mi accorgo che una vena è diventata più dura di un'altra, quindi si forma un cordone duro e dolente lungo il decorso di una vena, a volte arrossato, quella potrebbe essere una flebite. L'importante è porsi il problema e poi andare in pronto soccorso per fare un ecodoppler venoso e un prelievo di sangue per un test molto semplice che si chiama di dimero, che costa pochissimo e che serve per dire c'è disordine o non c'è. Non bisogna aspettare. È vero che la trombosi qualche volta si forma nelle nostre vene e poi passa da sola, perché abbiamo un sistema straordinario di spazzini che provvedono a portar via quei microtrombi che si formano, però aspettare nella trombosi non giova, perché se il trombo diventa vecchio si calcifica e se la vena viene chiusa altre vene devono prendere il suo posto, e spesso sono vene superficiali, quindi vene non compatte, vene che non aiuteranno il sangue a tornare al cuore, quindi si crea un circolo vizioso quando si crea una trombosi, è bene affrontarla subito. 800 24 00 24, chiamateci se avete dei segnali sospetti, se avete dei casi in famiglia, se notate nelle vostre vene delle vostre gambe degli indurimenti, se avvertite anche gonfiore, dolore, soprattutto mettere su un arto solo e non su tutti e due insieme. Anche formicolì? Solo su una gamba. I formicolì possono dipendere più facilmente da un problema di tipo compressivo della colonna, quindi chi soffre di mal di schiena spesso ha formicolì o difficoltà di sensibilità o sulle gambe o sulle braccia. Quando i sintomi sono bilaterali, cioè due parti del corpo contemporaneamente, destra e sinistra, più difficilmente sono legati a un problema di trombosi, più facilmente a una compressione delle radici nervose. Allora, tantissimi messaggi, tanti, telefonate, tanti, facciamo un po' un salto di qua e di là, così anche con le nostre gambette non stiamo fermi, facciamo alta, ecco, alta la pigrizia. E accontentiamo quanti più ascoltatori possibili, cominciando con Roma, dove ci aspetta Ilia, dove mettiamo l'accento? Non c'è l'accento, buongiorno. Buongiorno. Ilia, buongiorno a tutti voi. Senta, io avevo bisogno di un consiglio dalla dottoressa, e il problema mio è questo, io sono stata operata di safena, e dovevo togliere un trombo in una vena leggermente calcificato, ma invece di togliermi la safena con il trombo mi hanno tolto quella sana, quindi al controllo del mio medico privato è rimasto stupito e mi ha detto signora, ma il trombo è qui, e quindi adesso dovrò rifare un intervento chirurgo, ma sono in lista d'attesa da almeno 3 mesi e che in questo ultimo periodo la notte ho un dolore fortissimo, ho avvertito il medico che mi dovrà operare, che mi ha aperto la pratica, e mi dice che purtroppo gli appuntamenti sono, ci vuole molto tempo perché stanno ancora operando gli appuntamenti della scorsa stagione di Pasqua, immagini un po'. Il problema è questo, la ragione per cui vi chiamo, il fatto che io la notte mi svegli dal gran dolore che soffro sotto, ce l'ho dietro un polpaccio questo, questo come dolore. Un crampo, Ilia? No, è proprio un dolore, non è un crampo, è un dolore che io porto sempre. Io porto una calza elastica 18 mg, credo che si dica, sì. Però non so se a volte la notte per non sentire il dolore mi alzo e me la metto, poi me la devo togliere. Rispondo, allora, grazie Ilia, rapidamente le rispondo perché poverina si sta vivendo una situazione che può essere però migliorata. Allora, prima di tutto le calze di notte non si mettono perché non c'è nessun bisogno. Secondo, se c'è dolore lei deve andare a farsi fare un ecodoppler, perché lei probabilmente ha bisogno di usare immediatamente dei farmaci anticoagulanti che servono non solo per sciogliere quel trombo che lei ha sicuramente all'interno di quella vena, o perlomeno una parte di quella vena occupata da un trombo, che è quello recente. La parte recente del trombo può essere sciolta con gli anticoagulanti nell'attesa che poi lei debba fare tutte le procedure chirurgiche che sono programmate. Quindi il dolore è sempre segno di qualche cosa che non va corretto con le calze, che non vanno portate di notte. Lei deve valutare con il suo medico o fare un doppler, poi veda lei qual è la situazione migliore nella quale farlo, ma anche in pronto soccorso. Se c'è una trombosi recente, anche impiantata su una trombosi vecchia che magari si è un po' calcificata ed è per questo che la vogliono operare, lei comunque deve essere trattata con dei farmaci anticoagulanti, io non lo sottovaluterei. Allora, avremo Rosario da Napoli, ma dalla regia ci raccontano un po' qual è il motivo della sua chiamata, che è ricorrente in molti altri messaggi. E perché noi abbiamo detto, dottoressa Rottavendere, avete casi in famiglia, chiamateci, perché ci sono delle attenzioni, della precauzione, dei controlli da fare. Ad esempio il messaggio di Monica: nonni paterni morti per malattie cardiovascolari, papà operato di aneurisma cerebrale addominale a 40 anni, ha già asportato trovato le safene, sono a rischio, ci scrive Monica. Insomma, ci sono delle famiglie in cui queste malattie sono quasi, sono spesso ricorrenti. Beh, queste malattie sono talmente diffuse che per forza ci sono un sacco di famiglie dove ci sono stati dei casi. Credo che se facciamo i conti, una persona su 10 in 10 anni viene colpita da un evento da trombosi, vuol dire che non c'è nessuno di noi che può dire di non conoscere almeno qualcuno che l'abbia avuta. Quello che conta però è mettere le cose nel loro ordine. Noi siamo il frutto della genetica dei nostri genitori, e così come ereditiamo gli occhi azzurri o gli occhi marroni, i capelli dritti, i capelli ricci, i capelli spessi o i capelli sottili, ereditiamo anche un sistema della coagulazione che può essere in equilibrio perfetto per quello che conosciamo, oppure in un equilibrio fragile. Se io ho una pelle chiara e mi espongo al sole, e la mia pelle chiara è geneticamente determinata perché la mia mamma ha la pelle chiara, mi ha passato un gene pelle chiara, io andrò al sole con la protezione più alta. La mia sorella, che invece ha ereditato una pelle non chiara, andrà con una protezione minore. Quindi il concetto è: non dobbiamo spaventarci se abbiamo nella famiglia qualche caso di trombosi, malattia da trombosi, infarto, ictus, embolia, soprattutto in giovane età. Contano meno come impatto gli eventi da trombosi accaduti a 80 anni, 85 anni, perché ci sono molte più cause che li possono aver favoriti. Non ci dobbiamo mai spaventare, ma dobbiamo cercare di mettere in ordine quali sono i nostri fattori di rischio, e senza nessuna paura, perché questo è un problema affrontabilissimo, cercare di fare un'analisi di da dove posso cominciare per correggere quello che posso modificare e poi non posso modificare. Per esempio, faccio un altro esempio che sta: le persone che appartengono a una famiglia di persone sovrappeso, morfologicamente può darsi che tendano nell'evoluzione della loro vita a diventare sovrappeso o obese, ma se si fermano prima, lo sanno prima, sono sensibilizzate prima, queste persone possono non andare su quella strada. Il questo vantaggio della conoscenza, vedi? Sì, è un investimento da fare. Avremo tante domande dei nostri ascoltatori da sottoporle. Io ho pensato così, di far lavorare Alt, e quindi se volete mandarci le vostre domande a Cuore Denari, ecco, tanto noi naturalmente le inoltriamo agli esperti di Alt, che saranno lieti di darvi delle indicazioni, delle informazioni, non naturalmente di fare diagnosi via mail, lo sapete che questo non è possibile, ma indicazioni, suggerimenti sul lato della prevenzione o sull'aggiornamento, su quello che la ricerca mette a disposizione, questo è possibile. Grazie dottoressa Rottavender, buona giornata. Molte. Grazie mille a voi, è stato molto interessante, molto utile, spero, come sempre, tanti. Con lei. Grazie. Traffico. Cuore e denari. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Allora, questo è il mambo number 5. In realtà, per quello che riguarda il BTP Italia, siamo al numero 8. Non avevamo una canzone adatta, però. Pazienza, dai, facciamo. Anche se tu la balli, lo stesso. Io in questo momento non so se saprei ballarla, ma la ballo. Noi proviamo, ci cimentiamo in qualunque cosa. Allora, è partita lunedì l'ottava emissione del BTP Italia, il titolo di Stato rivolto prevalentemente al pubblico di piccoli risparmiatori pensato, lo ricorderete perché vi abbiamo tartassato con trasmissioni su questo argomento nel marzo del 2012 dal Tesoro italiano per attirare capitali domestici, quelli di casa nostra, sulle obbligazioni italiane nel momento peggiore della crisi dello spread. Il collocamento avviato due giorni fa ha tutte le caratteristiche delle precedenti emissioni, tranne una: la durata del nuovo titolo, che sarà di 8 anni anziché 6 come nei vecchi BTP. Come valutare allora questo investimento paragonandolo ad un altro titolo di Stato di stessa durata? Come stanno andando i titoli oggetto delle precedenti emissioni, alcune delle quali, lo ricordiamo, hanno registrato delle vere e proprie raccolte record? Gianni Lupotto, il nostro consulente finanziario, è pronto a rispondere a tutte queste domande, alle nostre ma anche alle vostre, quelle che ci farete all'800 24 00 24. Buongiorno professor Lupotto. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Tra l'altro, Gianni Lupotto, sa che Nicoletta non ho raccontato che ho proprio stampato poco fa i nostri due portafogli, perché lei non avevo è contenta il coraggio, perché vince più di me, guadagna, non avevo, non si il dice coraggio vince. Poi ti dirò che io sei più ricca, incasso virtualmente un bel 18% da quando ho consegnato il mio denaro virtuale a Gianni Lupotto. E io? Tu sei a più 7% circa, che però, siccome il tuo è un capitale molto conservativo, un investimento molto prudente, io non lo disdegno. Io mi sono sottoposta a tutte le oscillazioni del mercato e un po' di rischio. Tu sei stata tranquilla e incassi qualche soldino anche tu, per cui non disdegnerei. No, no, assolutamente, poi siamo in ottime mani. Gliel'ho condita bene, Lupotto? Sì, mi sembra che sia proprio questo il modo. Andiamo al nostro BTP Italia, in realtà l'operazione che è ancora in corso. Ha saputo, no, Lupotto, che oggi il Tesoro anticipa la chiusura dell'operazione alle 14? Esattamente, una chiusura anticipata come prevedibile. Esatto, poi ce lo faremo raccontare nel dettaglio da Pietro Poletto di Borsa Italiana. Allora, nelle passate edizioni 7 BTP sono stati sottoscritti per un ammontare complessivo di 94 miliardi di euro. C'è stata l'emissione record del novembre del 2013, nel corso della quale sono stati raccolti 22 miliardi di euro. Andiamo allora all'operazione attuale. È possibile aderire fino ad oggi per i piccoli risparmiatori fino alle 14, poi c'è una seconda fase, quella per domani, dedicata agli investitori istituzionali e a cui appunto sarà possibile sottoscrivere questo titolo solo per la durata appunto della giornata di domani. Nella prima giornata di collocamento gli ordini sono stati per 3 miliardi e 377 milioni di euro, domani. Ieri è stato raccolto quasi 1,5 miliardi, vedremo oggi come andrà. Lupotto, le caratteristiche di questo titolo, andiamo subito alle informazioni concrete per gli ascoltatori, investitori e risparmiatori. Certo, allora questo titolo è un titolo indicizzato all'inflazione italiana ed è rivolto soprattutto, come già lei ha detto, al risparmiatore, al retail. Le caratteristiche sono le seguenti: ha una durata di 8 anni, ha un tasso di rendimento minimo garantito che è stato per ora fissato nello 0,50% annuo, salvo miglioramenti che verranno comunicati entro domani sera dal Tesoro. Le cedole sono semestrali e sono calcolate su un capitale che di semestre in semestre si rivaluta con l'inflazione. E pertanto questa inflazione viene recuperata immediatamente perché la rivalutazione semestrale del capitale viene erogata sotto forma di denaro assieme alla cedola semestrale. Okay. Il capitale nominale è garantito a scadenza anche nel caso in cui ci fosse in questi anni una perdurante deflazione, quindi ci fosse una perdita del valore d'acquisto, questo non verrebbe a penalizzare l'investimento iniziale. No, questo è un aspetto molto importante perché siccome stiamo proprio affrontando uno scenario se non di deflazione ma di inflazione molto bassa, effettivamente molti ascoltatori si chiedono che senso ha investire in un titolo di Stato che ha proprio l'obiettivo di garantire a chi punta su questo strumento la protezione dall'inflazione. Magari su questo aspetto ci andiamo, ma dottor Lupotto, voglio chiederle che cosa ne pensa di questa scelta del Tesoro di proporre una scadenza di 2 anni più lunga rispetto alle precedenti emissioni. È stato molto enfatizzato questo aspetto, Maria Cannata lo aveva spiegato fra le altre cose, il capo del Tesoro italiano, dicendo cominciamo un po' ad allungare la durata media del debito pubblico italiano. Lei che ne pensa? Questo dal punto di vista del MEF è sicuramente positivo, ma anche dal punto di vista del risparmiatore, a mio parere, è positivo, in quanto l'inflazione oggi è molto bassa. C'è l'aspettativa per un rialzo, ma non è immediata. Quindi una durata del BTP più breve sarebbe risultata per il risparmiatore poco interessante. In questo caso c'è più tempo perché l'inflazione possa svilupparsi e quindi perché i benefici della copertura dall'inflazione possano effettivamente rendersi evidenti nelle cedole future. Come nelle precedenti emissioni, anche questo titolo, questo collocamento riconosce un premio fedeltà, per cui se io oggi investo nel BTP Italia che si sta collocando in queste ore, dottor Lupotto, 1000 euro fra 8 anni alla scadenza, se lo conservo per tutto questo periodo, quanto mi darà il Tesoro italiano? Questo premio è del 4 per 1000, cioè dello 0,4%, quindi non granché, diciamo. Su ogni 10.000 euro sono 40 euro. È un po' poco visto l'allungamento della scadenza, perché questo qua. Lei dice non li ha neanche presi in considerazione i tuoi 1.000 euro, è andato subito ai 10.000. Esatto. Il ministro Padoan poteva sforzarsi un po' di più in questo caso, con questa emissione. Dal momento che si è allungata la scadenza, sarebbe stato giustificato aumentare anche il premio, che invece è rimasto dello 0,4%. Poteva fare 0,5, insomma, magari ci penserà per la prossima emissione. E ha sbagliato. Esatto. Vedi? No, dicevo, magari potrà farlo per la prossima emissione, che credo non ci sarà quest'anno, mi pare di aver capito che sarà l'unico BTP Italia per questo 2015. Denari. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone. Guarda, di Tipi Italia ci fa rispolverare persino Toto Cutugno. Qua veramente ormai non c'è limite alla nostra fantasia. È il più italiano dei nostri titoli di Stato, se è possibile pensare che tra i diversi strumenti che ci permettono di investire nel nostro debito ce ne sia uno più patriottico degli altri. Insomma, più che il patriottismo, però, parlando del BTP Italia, il protagonista della nostra pagina di Denari di oggi, vogliamo sottolineare se siete anche d'accordo su questo aspetto, la convenienza per il pubblico retail, per i piccoli risparmiatori. È un titolo che protegge dall'inflazione, ma in molti chiedono: ma di quale inflazione state parlando, visto che i prezzi continuano a scendere e addirittura si va delineando per qualcuno uno scenario deflazionistico, altrimenti Mario Draghi il 22 gennaio non avrebbe messo in campo quell'incredibile quantitative easing del quale abbiamo parlato in tante puntate. Per il BTP Italia intanto mano alla cornetta per le vostre domande, 800 24 00 24. Raccontateci se avete già fatto la sottoscrizione a questo titolo di Stato nelle precedenti emissioni, se state pensando di farlo in questa circostanza. C'è tempo fino alle 14, ma facciamoci un po' raccontare come sta andando. Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana, anche se sarebbe più corretto dire London Stock Exchange, Borsa Italiana. Poletto, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. È corretto oppure possiamo continuare a dire Borsa Italiana? È corretto comunque, lasciamo la parte domestica. Non ho detto comunque delle cose non corrette. No. Come sta? Allora, sono le 12:12. Il Ministero dell'Economia alle 14 chiude i battenti e ha detto che terminerà la possibilità appunto per sottoscrivere il nuovo BTP Italia. Ci può dare delle cifre aggiornate su come sta andando la raccolta? Attualmente adesso stiamo facendo altri 278 milioni che si vanno a sommare ai 4.250 milioni cassati nelle prime due giornate, e dire che è un risultato assolutamente positivo. Oggi la tecnologia ci avversa, Poletto, perché non abbiamo sentito nulla, siamo un po' in difficoltà con questo collegamento telefonico. Glielo faccio ribadire. Allora, diciamo stamattina 278 milioni di euro fino ad ora, che si sommano ai 3 miliardi. Ai 4 miliardi 850 milioni nelle prime due giornate. Ecco, non avevo fatto prima e seconda. Alle giornata. 14 sicuramente superiamo i 5 miliardi di richiesta della fase cosiddetta retail del pubblico indistinto. Allora, come era... sapete, domani sarà la fase dedicata agli investitori istituzionali. Com'era nella facoltà del Tesoro, appunto, dicevo, è stata fissata questa chiusura anticipata dell'operazione per oggi alle 14. Ma secondo lei, come mai questa scelta? Non si poteva continuare a raccogliere un po' di più? Perché questi 5 miliardi che probabilmente verranno raggiunti sono già considerati soddisfacenti? Se li paragoniamo alle operazioni precedenti, abbiamo avuto delle emissioni record in assoluto, no? Evidentemente sì, probabilmente questo era il target previsto dal Ministero del Tesoro, per cui si è ritenuto soddisfatto della raccolta delle prime due giornate, ha lasciato ancora questa finestra di mezza giornata ancora oggi, però raggiungiamo e superiamo i 5 miliardi, probabilmente questo era il target previsto, per cui direi che siamo in linea con le aspettative che il Ministero aveva. Probabilmente domani ha la possibilità anche nella sezione istituzionale anche di controllare le emissioni, con la possibilità anche di avere un riparto qualora la domanda fosse troppo elevata, proprio per poter gestire al meglio quelle che sono le proprie aspettative. Certo. Di emissione. Perché appunto ricordiamo la differenza fra le due fasi del collocamento: i retail vengono accontentati fino alle 14, tutte le domande che arrivano il Tesoro le soddisfa; per gli investitori istituzionali di domani invece, se la domanda fosse ritenuta un po' troppo esuberante, il Tesoro andrà al riparto fra gli istituzionali che faranno richiesta, corretto? Ricordiamo assolutamente sì, ricordiamo anche che ovviamente l'investitore retail ha il privilegio di avere anche di non pagare nessun tipo di commissione di sottoscrizione in questa fase a lui dedicata, e in più di ricevere, qualora lo tenga fino alla scadenza, il cosiddetto premio fedeltà del 4 per 1000. Sì, infatti abbiamo già ricordato questi aspetti anche nella parte precedente della nostra trasmissione, ma la ringrazio Pietro Poletto di averli ribaditi. Un'ultima domanda per lei, poi ritorniamo al nostro consulente finanziario che ci fa fare dei calcoli di convenienza anche rispetto alle precedenti emissioni, se è il caso magari sottoscrivere un BTP Italia sul mercato secondario, perché non è che queste adesioni e questi investimenti possiamo farli solo sul primario quando i titoli sono in asta. Poletto, come è stato accolto l'aspetto nuovo della durata un po' più lunga del titolo di Stato rispetto alle emissioni precedenti? Direi bene, visto il risultato. Ovviamente la durata da un lato c'è, è stato ampiamente confermato dalla dottoressa Cannata, l'intenzione da parte del MEF di progressivamente allungare la vita media del debito in generale. Nella fattispecie del BTP Italia è ovvio che con la situazione di tassi molto bassi, prossimi allo zero, dei titoli di Stato in generale, non solo in Italia ma anche in Europa, evidentemente l'allungamento ha consentito comunque al Tesoro di comunque offrire un rendimento che potesse essere comunque interessante in queste condizioni. Infatti, tra l'altro c'è un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666. L'adesione di massa al BTP Italia da parte dei piccoli risparmiatori è una sconfitta per lo Stato. Accettare un interesse così basso vuol dire non avere fiducia. In realtà la sfiducia era molto chiaramente rappresentata da uno spread elevatissimo di qualche anno fa, quindi per l'ascoltatore posso capire che dal punto di vista del piccolo risparmiatore un tasso di interesse molto basso non è appetitoso, ma voi immaginate invece quale risparmio guadagna appunto lo Stato in questa fase. Grazie a Pietro Poletto per essere stato con noi, buon lavoro, la lascio monitorare le adesioni fino alle 14, poi ci darà il bilancio finale più tardi. Grazie. Grazie, buona giornata. Gianni Lupotto, cominciamo a sentire le domande degli ascoltatori. Molto volentieri. Un poverino l'abbiamo trascinato fin qua e da un po' che aspetta. Sì. E abbiamo infatti Marco da Roma. Forse era, no, Danilo. Era Danilo. Sì, era Danilo. Marco, buongiorno, mi scusi, deve fare un passo indietro perché c'è Danilo prima di lei. Stia lì, Marco. Però stia lì, guarda, sai che facciamo? Prendiamolo tutte e due le domande, così almeno non li facciamo aspettare. Danilo, buongiorno. Buongiorno, vorrei porre un quesito e ringrazio per la risposta che mi darete. Grazie. Io ho acquistato tempo fa dei BTP con scadenza 2021 a 96, attualmente valgono circa 118 punti in borsa. Insomma, ha un bel guadagno. Danilo, quando li ha presi, quindi che durata avevano complessivamente? Erano dei 15 anni? BTP, no, di più, 21. Scadenza 21, adesso non so. Dura. No, ma quando li ha presi, l'altro ieri, un anno fa, due anni fa? No, parecchi anni fa. Se erano a 96 li aveva presi tre anni fa, non lo so. Sì, infatti, e siccome c'è una plusvalenza che potrei realizzare, vorrei sapere se è il caso di realizzare questa plusvalenza e acquistare dei BTP Italia, gli attuali. E magari realizzare questo guadagno Danilo, abbiamo capito. Guardi, tra l'altro, tutte le volte che si tocca il tema titolo di Stato, ormai questa è una domanda ricorrente, già uscita anche con Lorenzo Alfieri di JP Morgan settimana scorsa nel nostro percorso di Investire Informati, per cui Danilo, se ho un po' capito come la pensano i nostri consulenti, forse una risposta sarei in grado di darla anche io, adesso non questo, mi voglio allargare, però sono un po' certa. Vabbè. Allora, prendiamo anche Marco. Mi raccomando, dottor Lupotto, noi ci siamo segnati tutti, ma stia attento. Prima domanda registrata. Secondo stimolo arriva da Marco, che ci chiama da Roma. Ribenvenuto Marco. Grazie, il discorso è semplicemente questo, che la validità delle fonti, cioè l'Istat nel caso dell'inflazione e quindi che viene agganciata, no, al rendimento del titolo, come avete spiegato in precedenza, e poi a un livello superiore, almeno considerato superiore, queste agenzie di valutazione, queste tre sorelle. Le agenzie di rating. Sì, le agenzie di rating, che sinceramente non è che abbiano dato prova di totale imparzialità. Per quanto riguarda l'Istat è un un discorso di organizzazione, perché io mi sono trovato, per esempio, ma questo molti anni fa, a notare che la raccolta dei dati sul territorio avveniva in modo, diciamo... Allora Marco, non è tanto una domanda quella di Marco. Ecco, esatto, Marco, guardi, andiamo un po' al succo di quello che lei vorrebbe chiedere. Questo è un titolo, il cui rendimento è agganciato all'inflazione, il tema è capire qual è il riferimento corretto che il Ministero dell'Economia prende per fare poi questo calcolo del rendimento. Sull'inflazione, beh, c'è una norma molto precisa che lo dice, l'indice FOI, adesso non so quanto sia chiaro per gli ascoltatori, però Lupotto, da che cosa vuole cominciare? Cominciamo già subito magari da quest'ultimo aspetto, se se la sente. Cominciamo da questa domanda. L'indice FOI è sostanzialmente una rilevazione di un paniere di beni, questo paniere di beni viene aggiornato con una certa frequenza ed è disponibile sul sito dell'Istat, quindi c'è l'elenco dei beni che costituiscono questo paniere, e queste rilevazioni fatte mensilmente danno luogo all'inflazione italiana. La FOI è per le famiglie, operai, impiegati, e in particolare quella che aggancia al BTP Italia è diciamo non tiene conto dei tabacchi, tiene conto degli altri beni. Questo è questo abbiamo. Per quanto riguarda Danilo, ecco, dunque Danilo ha un BTP che scade nel 2021, sì, e il rendimento residuo a scadenza di questo BTP per i prossimi 6 anni è molto inferiore all'1%, attorno allo 0,70%. Pertanto la domanda di Danilo se farebbe bene a switchare su questo BTP Italia, la risposta è sì. In quanto lei dice di sì. Sì, perché monetizza la plusvalenza, questi 118 vuol dire da 96 a 118, sì. Esattamente, vogliono dire 22 punti di plusvalenza e comunque 18 punti più del valore normale. Ma non mantiene una buona cedola in questi prossimi anni, secondo lei? Però il prezzo da 118 passerà a 100. Uh-huh. E quindi il decremento di valore del prezzo ridurrà la cedola contestualmente. Ridurrà la cedola allo 0,7%. Quindi è molto meglio per Danilo a questo punto monetizzare e quindi consolidare questo guadagno e se lo desidera acquistare BTP Italia, che il rendimento dello 0,5% lo garantiscono comunque, e a questo rendimento si assommerà l'inflazione che maturerà nel periodo. Quindi è uno switch che probabilmente dal punto di vista cedolare non gli dà alcun danno e gli consente di portare a casa questa ricca plusvalenza, peraltro ancora tassata in modo ragionevole perché è al 12,50%. Ho capito che non ho capito nulla, avrei messo la mano sul fuoco che lei avrebbe suggerito di mantenere invece questo investimento e magari disinvestirne una parte per collocarne nel BTP Italia, perché comunque per chi ha acquistato sotto la parità qualche tempo fa Lupotto ancora conserva un buon investimento, no? Soprattutto in termini appunto di capital gain, di rendimento, e invece no, per una scadenza residua di questo tipo forse vale la pena fare lo switch sul BTP Italia, almeno secondo il parere del consulente finanziario. Francesco da Milano ha un caso simile a quello in cui si trovano non solo l'ascoltatore Danilo che ci ha chiamato prima, ma quello in cui si trovano in molti. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Sì, anch'io non ho capito nulla, però avevo una curiosità da chiedere. Anch'io ho qualche BTP fantastico che sta andando su di prezzo con una cedola eccezionale. La mia banca continua a chiedere se lo voglio vendere e ho un sospetto. Io penso che sia perché la Banca Centrale Europea gli sta facendo un'incetta. Questo è il mio... Intanto ci dice sì, che tipo di durata ha questo titolo che lei ha in portafoglio, Francesco? Quando 29. Allora, l'importante è che la banca non la metta sotto pressione perché contestualmente le vuole vendere magari un'obbligazione sua e quindi lei si prenda tutto il tempo necessario per fare questa scelta. No, Lupotto, almeno da questo punto di vista posso dire di aver dato un suggerimento corretto? No, assolutamente, la decisione deve essere autonoma. Ecco. Il fatto che la BCE faccia incetta di questi titoli, come dice l'ascoltatore, fa sì che i loro prezzi crescano. E quindi la BCE è obbligata a fare questo perché fa parte del QE di Draghi. Quando c'è una parte che compra molto e quindi i prezzi salgono, dall'altra parte è evidente che è conveniente vendere, è un po' sempre così il meccanismo, per cui se i prezzi sono alti conviene vendere, casomai riacquistando più tardi. Certo. Però insomma, Francesco, secondo lei che tipo di elementi deve tenere in considerazione per capire se è il caso di tra virgolette accontentare la banca o accogliere il suggerimento della banca, senza naturalmente sottostare a questa pressione, ma un suo appunto una riflessione personale che l'ascoltatore deve fare. Deve farla individualmente. Primo, se il nostro ascoltatore ha bisogno dei soldi, ecco. Quindi se in questo momento ha delle scadenze, delle necessità, in questo caso questo è già un elemento a favore della vendita. Nel caso non fosse così, deve valutare se può reinvestire questa somma in un'altra forma di investimento, in un altro strumento finanziario che ipoteticamente restituisce un rendimento migliore con un rischio paragonabile. E questo è il secondo ragionamento da fare. Chiarissimo, speriamo di aver chiarito le idee anche al nostro ascoltatore. Intanto, con questi due bei prospetti che ha davanti agli occhi, io la lascio nelle mani di Nicoletta Carbone, dottor Lupotto, perché avrebbe qualche domanda da farle. Mi spieghi un po' questa differenza. A parte che Deborah ha accettato, no, di fare un approccio un pochino più aggressivo. Ma in realtà l'avevo proprio chiesto. Ecco, se ti ricordi, no? Quindi dico, volevo un po' differenziarmi da te mettendo il turbo al mio portafoglio. Allora, voi dite che dovrei essere contenta per il più mio 7% più 6,79, non è proprio 7. Quando è che aveva cominciato Nicoletta, dottor Lupotto? È stato il 5 novembre 2013, ha avuto un rendimento annualizzato del 4,72, in un momento in cui l'inflazione è stata zero, è praticamente un rendimento reale. Tutto guadagno. Tutto guadagno. Sì. La richiesta di Nicoletta era quella di rischiare pochissimo. Quindi diciamo abbiamo avuto un rapporto rischio-rendimento eccellente per il diciamo l'obiettivo che ci eravamo dati. Differente è il caso di Deborah, in quanto Deborah con Deborah abbiamo iniziato più avanti, iniziato nel settembre. Ha mandato avanti me, Deborah, come sempre. Settembre 2014. La sua richiesta era stata quella di cercare un rendimento più alto sottoponendosi ad alcuni rischi. Come abbiamo agito in questo caso? Veloce? Inserendo dell'azionario, inserendo dell'esposizione al dollaro e anche qualche valuta esotica come la lira turca. Esattamente. Il risultato è stato questo 18% in 6 mesi. Con inflazione? Con inflazione negativa in questi mesi. Ecco, infatti, ecco. Per cui effettivamente mi è andata meglio, però magari nei prossimi mesi hai visto mai che Lupotto mi brucia tutto con questi suggerimenti, ci ritorneremo su tutto. Volentieri. Questo. Volentieri, grazie a Gianni Lupotto, tra l'altro questi portafogli sai che molti li stanno copiando con del denaro vero, Nicoletta, ma state attenti, mi raccomando. Domani non ci sono. Ma io sì, e ti prometto che farò tutto il mio dovere anche per la parte di cuore. Buona giornata certa. A tutti. E denari.